disgiunti da anni e guai, stretti in un suon di cetra d'anni di notte di pietà, la misericordia per le loro anime vieta, al mondo ogni cura lor profana, dieta del peccato imposta da una croce lontana. Il mondo che martiri li vuole in solitaria tana, arlecchino e buffoni il mostro che li anima, ogni rima della loro giovane età mima, un cuore morto, sorridente, pagliaccio di lacrima, solo questa penna addormenta il ponte, tempo tra loro come un tempio d'onte, e frastuono tuono buono, dono amaro, divisi loro da un tempio avaro, che corrode le due sponde, lontano, lame d'onde, lame d'onde. Al fragore delle loro orecchie sentono l'un l'altra come in conchiglie, il suono di spruzzi, di lacrime, di liriche. Oggi il suono si è fatto fievole, distesa d'arpe che vengono giù da nuvole, nere favole, nere favole. Che disgiunti ai nipoti raccontano con lode lor lontani, di due cuori che s'amavano ma che il loro bacio ma in pace sode. Se le nostre labbra avessero visto l'ebro ora, i nostri pianti non servirebbero a lavar le vesti d'albatro, danni sporchi sospesi su mari dei nostri stessi cuori ormai indifesi, su mari dei nostri stessi cuori ormai indifesi, su mari dei nostri stessi cuori ormai indifesi. E ancora oggi lei si sveglia ormai tra i faggi intorno alla casa, dalla finestra chiusa, poi dal suo grido aperta, che tu sia maledetto amor mai giunto, e all'ultimo muto urlo crolle al capo ormai canuto morta, che tu sia maledetto amor mai giunto, e all'ultimo muto urlo crolle al capo ormai canuto, lei ormai morta.